poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. E come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. E come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni lontano, lontano, nessuno ci vedrà. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Stessa spiaggia, lo stesso mare.